Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. Allora, la cronaca di questa giornata economico-finanziaria. Alcune notizie di carattere tra l'economia e la politica arrivano dalla seconda giornata di lavoro del forum di Davos. Ne parleremo anche nella seconda ora del programma. L'intervento del nostro ministro Tremonti, ma non solo, il presidente della Banca Centrale Europea Trichet. Insomma, si entra nel vivo, avremo anche capacità, spero, ma comunque tenteremo di così capire come mai da Davos però tutta questa autocritica non arrivi, cioè la comunità più importante che si riunisce una volta all'anno per così capire dove va il mondo, World Economic Forum, questo è il titolo. Beh, alcuni fanno notare che ci si sarebbe aspettato un minimo di autocritica, visto che l'anno scorso a Davos nessuno aveva, non dico predetto, ma lasciato intuire il ciclone che poi si sarebbe abbattuto. Quasi nessuno, sicuramente non la maggior parte dei partecipanti. E allora, diciamo, adesso ragionare sulla crisi come se questa crisi non avesse responsabilità forse non è così corretto da un punto di vista intellettuale, ma ne parleremo anche in apertura, anche perché in America c'è chi inizia ad avanzare qualche dubbio sulla efficacia dei piani anticrisi, nel senso che si dice il costo del denaro è ai minimi storici, il pacchetto di Obama che oggi è passato alla Camera andrà al Senato inietterà altri 820 miliardi circa di dollari, non c'è il rischio, questa è la domanda che si pongono alcuni osservatori proprio dagli Stati Uniti, che alla fine si droghi il mercato con un insieme di pacchetti anticrisi che vanno a salvare tutti, salvabili e non salvabili, e in secondo luogo quando si smetterà di aiutare l'economia e lasciare che invece poi il mercato riprenda il suo corso facendo anche eventualmente morti e feriti, ma espellendo chi non ce la fa e mantenendo invece chi può competere. Non è una domanda da poco, perché alcuni di voi ricorderanno che secondo molti osservatori questa crisi dal punto di vista finanziario nasce e si sviluppa come bubbone proprio dopo l'11 settembre, quando Alan Greenspan, allora numero uno della Federal Reserve, tenne i tassi molto molto bassi, secondo alcuni osservatori troppo a lungo, e quindi rendendo il denaro troppo facile e rendendo troppo facile prestare denaro, e quindi da lì tutto quello che poi abbiamo visto, banche che non valutavano più il rischio nel prestare denaro, denaro che veniva impiegato in maniera molto molto leggera. Comunque 349-238-6666 per i vostri sms. La borsa Mibtel meno 1,2, S&P Mib meno 1,5, Parigi meno 1,9, Francoforte meno 1,6, Londra meno 2,5%, il Dow Jones perde l'1,1 e il Nasdaq l'1,6%. Euro su dollaro a quota 1,30, leggermente in indebolimento l'euro anche sul pound a 91 pence per un euro. I titoli Bulgari meno 6,6, Telecom meno 5, Fondiaria meno 4 come Fiat e Pirelli, l'Espresso meno 3,6, ST Microelectronics perde il 3,3 come Luxottica, Generali meno 3, l'Automatica pure, il 2,6 lo perde Autogrill, il 2,4 il Monte dei Paschi di Siena e infine il 2% è il calo di Buzzi, Unicem, Unicredito, Ubibanca e Mediobanca, ma anche in pregilo. Chi guadagna? Italcementi più 3, Parmalat più 2,4, Mondadori più 2,3, Finmeccanica più 1,5 come Unipol, Eni più 1,1, Popolare di Milano più 1%, Snam più 0,90. Parleremo quindi delle politiche, degli annunci di politica economica, delle dichiarazioni che arrivano da Davos, ma anche come sempre di altre notizie di questa giornata. In breve allora i titoli principali. E una delle notizie principali che arrivano di nuovo da Davos riguarda il petrolio. Perché? Perché oggi il petrolio è in calo, è a 40 dollari al barile. Insomma, è mesi che ormai si muove tra i 34, 33, 43, 45 dollari. Però l'OPEC, l'organismo che riunisce i maggiori paesi produttori e esportatori, non ci sta, non le piace proprio il petrolio a 40, ma non le piacerà o non le piacerebbe nemmeno un petrolio che eventualmente si portasse a $50. L'ho detto oggi il segretario generale dell'OPEC, il Badiri, quale ha detto: insomma, a marzo ci riuniremo e probabilmente taglieremo ulteriormente la produzione, perché anche $50 al barile è un livello troppo basso. Nel frattempo la Shell chiude il quarto trimestre in rosso a causa del calo del prezzo del petrolio, una perdita di $2,8 miliardi contro un utile di $8,45 miliardi dello stesso periodo l'anno prima. Questo a dimostrare che poi, insomma, quando aumenta il prezzo del petrolio aumentano di molto anche gli utili dei grandi gruppi petroliferi. Ieri la ConocoPhillips aveva comunicato perdite per $31 miliardi, domani saranno i conti di Chevron ed ExxonMobil. Una buona notizia di nuovo ce la fornisce l'Euribor: a tre mesi è sceso al 2,1%, a questo punto si va al minimo dal giugno del 2004 per il tasso interbancario di riferimento, sia il costo che hanno le banche nel prestarsi denaro e il tasso che dovrebbe essere utilizzato per calcolare poi il mutuo a tasso variabile, lo spread cosiddetto. Allora, per quello che riguarda invece la vicenda americana e di altri gruppi americani, ci sono delle notizie, adesso mi viene da sorridere perché cerchiamo di raccontare queste crisi anche in maniera un po' ironica. Allora, nella New York colpita dalla crisi, non solo abbiamo scoperto ieri che non vanno più al ristorante i top manager ma vanno da McDonald's, scopriamo che è nato anche un insolito club di ex fidanzate e mogli disperate degli ex ricchi banchieri colpiti dalla crisi, molti dei quali si sono messi a bere o passano le serate in giro per i bar. Secondo me è sempre meglio così che non in cassa integrazione agli ex ricchi banchieri. Il club, creato comunque sul modello degli alcolisti anonimi, qui c'è anche meno da sorridere perché in America qualche caso di omicidio-suicidio dovuto alla depressione di questa crisi si è già registrato, questa è una cosa ben più seria. Ma comunque il club creato sul modello degli agonisti anonimi si chiama Dating of a Banker Anonymous. Si incontrano le mogli, le ex fidanzate, le mogli separate o quelle che si vogliono separare per cercare di capire con l'aiuto di uno psicologo come superare le inevitabili liti di coppia causate dal crollo della Lehman Brothers o dalla conseguenza della pessima tenuta del Dow Jones. E va bene, andiamo avanti. La Ford nel 2008 ha registrato la perdita peggiore da quando esiste, e voglio dire, la Ford, se qualcuno di voi se la ricorda, è la fabbrica per antonomasia in America. Ebbene, $14,6 miliardi per quello che riguarda la Ford come perdita, però ha detto non serve un prestito ponte, riusciremo ad andare in utile e a tornare all'utile nel 2011. Davos. Allora, oggi il presidente della Banca Centrale Europea, Jean-Claude Trichet, ha detto: non escludo, l'ha detto alla CNN, adesso potremmo anche ascoltarlo, ma non escludo che i tassi di interesse vadano anche sotto il 2%. Di solito quando un banchiere centrale parla in questo modo è già un'anticipazione o viene letta come un'anticipazione. Escludo che Trichet abbia fatto così uno scivolone, comunque ascoltiamolo. È vero che il Consiglio della Banca Centrale Europea considera, per molte ragioni, che tassi di interesse molto, molto bassi non siano appropriati. Detto questo, però, posso anche affermare che i tassi attualmente sono al 2% e non escludo che potrebbero scendere al di sotto di questa soglia. In marzo avremo il prossimo importante appuntamento e non escludiamo nulla. Non escludiamo azioni straordinarie, ma già quello che facciamo oggi è fuori dagli standard. Già oggi forniamo liquidità senza alcun limite. Nessuno avrebbe immaginato che avremmo fatto quello che stiamo facendo prima dell'intensificarsi della crisi a fine settembre 2008. Stiamo prendendo dei rischi mai presi prima, proprio perché stiamo vivendo una situazione economica molto particolare. Quindi abbiamo adottato misure non convenzionali. Potremmo prenderne delle altre, vedremo. Non voglio anticipare nulla e non voglio escludere nulla. I don't pre-announce anything, I don't exclude anything. E anche di questo parleremo, perché avete sentito un presidente della BCE essere preoccupato per i tassi troppo bassi, perché appunto bisogna capire quando smettere di aiutare il mercato, di drogare, dicono alcuni, il mercato con tassi eccessivamente bassi, e dall'altro però non escludere che potrebbero andare anche sotto il 2%. Perché Trichet è così preoccupato? Beh, forse perché oggi la Germania, che è il paese di riferimento per la Banca Centrale Europea, è inutile nascondersi dietro un dito, ebbene in Germania la disoccupazione è salita al 7,8%, dato di per sé stesso non dice molto, è superiore alle stime, è il doppio di quanto si attendevano gli economisti. Il numero di disoccupati è cresciuto infatti di altre 56.000 unità, in totale i disoccupati in Germania sono a questo punto 3.270.000. Ma sempre per raccontare questa crisi, non solo con i numeri, le statistiche e le previsioni che lasciano delle volte il tempo che trovano, oltre al club delle mogli, fidanzate, degli ex ricchi banchieri che girano per bar a ubriacarsi, disperati da Lehman Brothers e da Wall Street, chiaro la battuta che vedo già scritta da alcuni di voi, evidentemente hanno i soldi almeno per il bar, ci sono casi più interessanti. Non è solo McDonald's ad aver annunciato una grande operazione di assunzione in un periodo in cui tutti li licenziano. Beh, McDonald's avrà nel 2009 12.000 nuovi assunti e aprirà nel mondo 240 ristoranti, tra l'altro Francia, Italia, Spagna, Russia e Polonia. McDonald's ha visto, e non penso solo per i banchieri di Wall Street, aumentare le vendite del 3,3%, con un utile che è cresciuto ben più di quanto si attendesse qualunque analista. Per cui c'è anche chi in questa crisi, come McDonald's, come chi lavora sulle fasce di prezzo basso, in questa crisi vede aumentare i volumi d'affari. Ce n'è un'altra, si chiama H&M, alcuni di voi la conoscono, è una catena svedese della moda a basso costo, è diciamo l'equivalente svedese di Zara. Ebbene, H&M aumenterà gli occupati, quindi assumerà tra le 6 e le 7.000 persone quest'anno. Questo perché tutti i numeri vanno benissimo, le vendite sono aumentate del 12%, gli utili 1.400.000 euro, proprio grazie o a causa della crisi, per cui il numero di consumatori che si va a vestire in negozi di moda a basso costo è aumentato. Questo anche come messaggio, forse abbassare i prezzi ogni tanto potrebbe essere un modo, se uno ce la fa, per uscire dalla crisi. Parlo soprattutto delle vendite al dettaglio e del mondo del commercio. Allora, da noi, vicenda Fiat, a questo punto l'Anfia, vicenda Fiat e Auto, l'Anfia, che è l'associazione che riunisce i produttori di componentistica anche auto, ha detto bene gli incentivi a 1.500 euro, però è tutto ancora da capire. Sangalli, presidente della Confcommercio, dice il settore auto è un problema drammatico, ma ci sono altri settori e vorremmo che il governo si impegnasse su altri settori, anche di questo parleremo, perché resta aperto il dibattito. Comunque, la notizia da cui partiamo sono le politiche americane contro la crisi. La Camera dei Deputati ha varato il piano di stimolo all'economia, 825 miliardi, il piano che è fortemente voluto da Barack Obama. Adesso il provvedimento passa al Senato. Obama vuole che diventi operativo entro metà febbraio. E allora, l'America sta facendo abbastanza rapidamente passare questo piano, mentre domani usciranno i dati sull'andamento del PIL americano nel quarto trimestre, ci sono attese di un meno 5% rispetto al quarto trimestre dell'anno prima. Dicevo, nel frattempo è record anche in America sulla disoccupazione, 4.700.000 sussidi sono stati erogati a questo punto il dato è definitivo, ed è il livello più alto da quando esiste questa statistica, da quando si conteggiano i sussidi alla disoccupazione, cioè dal 1967. E anche qui gli economisti si aspettavano una flessione a quota 575.000, ci sono stati invece 3.000 sussidi in più solo in una settimana. Un altro dato americano: a dicembre la vendita di nuove case è crollata ai minimi storici, mai non esisteva una statistica prima su questo, nel senso che mai così bassa, meno 17,4% a 331.000 unità. E poi c'è un atteggiamento americano che alcuni iniziano a guardare con preoccupazione, ne abbiamo già parlato due giorni fa, un atteggiamento un po' protezionistico nei confronti per esempio di un rafforzamento delle barriere doganali. Allora, parliamo di America e lo facciamo oggi con il professor Alberto Bisin, che insegna economia alla New York University, è tra l'altro editorialista della Stampa. Buonasera professore. Buonasera. In collegamento con noi da New York. Ho un po' di domande per tutti, anche per la categoria a cui appartiene lei, però arriviamo dopo alle barriere doganali, iniziamo subito da Davos. A lei non ha sorpreso che queste migliaia di partecipanti al forum, che si fregia di essere, diciamo, l'Olimpo di chi sa guardare al futuro, World Economic Forum, si occupa del mondo, niente po' di meno che 1600 rappresentanti della finanza, 41 capi di governo, 150 tra ministri e altri funzionari, 225 giornalisti, 60 intellettuali, che è la categoria che più mi fa impazzire, non si è sentita un'autocritica, un scusate, ci siamo sbagliati? Insomma, Davos c'era anche l'anno scorso, nello stesso periodo, eppure... No, voglio dire, qua stiamo ragionando su statistiche che saltano, mai così alti disoccupati in America da quando esiste il dato, mai così bassi tassi in America da quando... dalla seconda guerra mondiale, mai così bassi in Gran Bretagna da quando esiste la Bank of England, però lì tutto va bene, forse è l'effetto vatta della neve? Non so l'effetto vatta della neve, io non ci sono mai stato a Davos, ma no, sì, credo lei abbia ragione che diciamo non si sente molta autocritica in generale. È difficile capire, insomma, identificare in questa crisi il colpevole, insomma, non è una cosa facile. È chiaro che parte della crisi è dovuta alle politiche monetarie di Greenspan. Oggi Greenspan, non so se sia Davos, ma se ci fosse probabilmente gli tirerebbero le scarpe addosso. O le palle di neve addosso. Dai. O della neve addosso, esattamente. Parte è quello, la crisi in effetti, insomma, è fuori discussione, molti pochi economisti avevano previsto la bolla nei valori immobiliari. Questa, in un certo senso, dal punto di vista della nostra professione, questa è la cosa più grave, nel senso che tutto il resto, o molto del resto, insomma, io credo si fosse abbastanza capito, ma sulla bolla c'era molto scetticismo, c'era molta gente che diceva questa è una bolla e c'era molta gente che diceva ma no, le bolle non esistono, insomma. Su questo credo che sì, che almeno la mia categoria debba certamente ripensare. Dal punto di vista della finanza, no, è chiaro che diciamo la finanza, Wall Street, negli ultimi anni ha sbagliato tutto, insomma, questo è ovvio, quindi anche su questo c'è molto da ripensare. Diciamo, parte dei problemi sta nei sistemi di incentivi con cui sono pagati i grossi manager. Su questo io sento meno il dovere, diciamo, come economista, non io personalmente, di fare autocritica, nel senso che gli economisti hanno spesso detto, hanno spesso sostenuto che uno dei grossi problemi con i sistemi di incentivo, sistemi di salari e di incentivo dei manager qui, sta nel fatto che sono troppo a breve termine, e io credo che questo fosse sia un grosso problema, insomma, che se tu guadagni col bonus quando il titolo va su anno tendi ad avere una visione miope, ossia di brevissimo termine. Tra l'altro anticipo che domani, non abbiamo dimenticato il tema, faremo un bel approfondimento grazie anche ai colleghi del Sole 24 Ore su quanto hanno preso i manager delle banche d'affari americane in bonus, e ne vedremo delle belle, parliamo di decine di milioni di dollari all'anno a testa, e com'è andata la banca che gestivano. E lì veramente non oso pensare ai messaggi che arriveranno. Però professor Bisin, per restare sul tema delle previsioni, allora nessuno qua fa autocritica. Io mi ricordo quando scoppiò il crack della Enron, almeno c'era la faccia di Kenny Lay, di Kenny Boy, come lo chiamava la famiglia Bush, lì in prima pagina. È stato arrestato, condannato. Parmalat aveva la faccia di Calisto Tanzi, di Tonna, insomma, la Ciro quella di Cragnotti. Qui è successo il peggior disastro degli ultimi 40 anni sul fronte della finanza. La disoccupazione potrebbe crescere di 30 milioni di unità. Questa non c'è una faccia, non c'è un nome, non c'è un processo. La sensazione che ho, che anche Obama, è che l'emergenza sia tale che non ci si possa nemmeno fermare a ragionare e cercare di capire chi è stato, che responsabilità ha, che provvedimenti prendere, che autorità rinnovare, chi licenziare, chi mandare via. È talmente grande la tensione, la preoccupazione per le conseguenze di questa crisi che tutti stanno già pensando al domani. Non vorrei che questo ci impedisse di non ripetere questi errori. Dunque, sì e no, insomma, non sono completamente d'accordo con questa analisi, nel senso è fuori discussione, io credo lei abbia ragione che l'emergenza è tale o è sentita tale che ci si ferma, insomma è difficile in questo momento guardare indietro. Questo è in parte vero, ma avverrà quando l'emergenza diventerà meno emergenza, meno grave, si ricomincerà a guardare indietro. Non credo che quello avverrà. Però diciamo c'è anche un'altra questione, cioè tutti i casi che citava lei erano casi, diciamo, di comportamenti illegali. In quel senso anche in questi giorni qui la faccia di Madoff tutti i giorni sul giornale, cioè diciamo è più facile ovviamente trovare un colpevole se il colpevole ha fatto qualcosa di illegale. La realtà è che purtroppo molti delle pratiche di Wall Street negli ultimi anni, quelle pratiche ci hanno portato, diciamo, la crisi finanziaria, erano perfettamente legali. Quindi finisce che, diciamo, le facce che appaiono sulla stampa sono quelli dei grandi CEO che si sono rifatti il bagno a spese pubbliche e hanno fatto, diciamo, cose un po' stupide di questo tipo. Però il problema, cioè io credo che lei ha ragione che è una questione che l'emergenza rende difficile fare ripensare, ma credo che sia anche oggettivamente difficile, nel senso che oggettivamente era l'intero sistema finanziario che è funzionato molto male, proprio l'intero sistema, quindi in questo senso è chiaro che è molto difficile trovare una faccia. Beh, devo dire che molti ascoltatori, non tutti, ma sono d'accordo con lei, dicono: beh, era un sistema fuori controllo e quindi non ci sono i volti, per quando è un sistema tutto viene in qualche modo sgranato, diluito all'interno del sistema. Questo però non mi rassicura su un altro aspetto, professor Bisin, visto che lei le riconosce una grande onestà intellettuale. Questa crisi, lo dicevamo all'inizio, nasce, secondo ormai tutti, perché un personaggio che si chiama Alan Greenspan e tutto un sistema dietro di lui decide di tenere i tassi bassissimi dopo l'11 settembre, troppo a lungo, nel senso che l'America dopo l'11 settembre non va in recessione come si temeva o si poteva temere. Il denaro costa troppo poco, no, anzi non costa niente prestarlo, questo abbassa la soglia d'attenzione di tutti i banchieri, si creano prodotti assurdi, complicati, che sfuggono di mano perché appunto il denaro non rende niente con i bot e con altri strumenti, lo si presta per un nulla, si danno mutui agli americani che già non risparmiano neanche un dollaro al 120% sulla casa e il sistema poi scoppia per aria. Adesso abbiamo i tassi più bassi dalla seconda guerra mondiale, in Inghilterra da sempre, in Europa praticamente pure. Trichet, l'abbiamo appena sentito, ha detto forse anche sotto il 2%. Va bene abbassare i tassi e aiutare il malato, però a un certo momento devi sapere anche come medico quando levargli, diciamo, l'antibiotico, se no, o la medicina, se no con la stessa medicina lo indebolisci. Dopo le informazioni in merito alla pubblicità vorrei capire se secondo lei un sistema che così allo sbando sarà in grado di capire quando tornare ad alzare un po' i tassi, quando aiutare un po' di meno l'industria in difficoltà e lasciarle fallire, perché se non ce la fanno devono fallire, cioè quando tornerà anche a levare il metadone con cui sta tenendo in vita il sistema finanziario americano. 17:35 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Fra poco commenteremo la chiusura di borse, meno 1,3 Milano, meno 2% le altre borse europee. Siamo in collegamento con New York, con l'economista e docente anche alla New York University, Claudio Alberto Bisin, per capire un ultimo aspetto che mi interessa, cioè quando e come si riuscirà a capire quando smettere di aiutare l'economia e smettere di usare, abbiamo usato un'espressione un po' forte, metadone per tenere in vita banche che sono tecnicamente fallite, industrie che tecnicamente insomma non, e produttivamente non ce la fanno a stare sul mercato, e quando i tassi potranno tornare a un livello più reale, non lasciare il denaro a costo zero? Dunque sì, ecco, questo credo che sia veramente il punto fondamentale della questione, della crisi in questo momento. Diciamo, per quanto riguarda quando smettere di tenere in vita banche e imprese e industrie che sono al fallimento, credo che la risposta qui sia facile: bisogna smettere immediatamente. Prima si smette, prima si riesce dalla crisi, nel senso che il capitale e il lavoro viene riallocato a industrie produttive e si esce. Quindi da quel punto di vista credo sia facile. La questione difficile è quella dei tassi di interesse. Lei giustamente diceva che buona parte di quello che sta succedendo è avvenuto sotto Greenspan, che ha essenzialmente scioccato l'economia buttando liquidità nell'economia, tenendo i tassi bassi o abbassando i tassi. Questo è verissimo, e quindi è un effetto, diciamo così, di offerta. Quello che sta succedendo adesso, in realtà, i tassi bassi adesso non è è un pochino l'opposto di quello che è successo sotto Greenspan, cioè è un effetto di domanda, e in questo momento le famiglie, le imprese risparmiano tantissimo e vogliono risparmiare solo in titoli del tesoro e monete e liquidità. Il punto è escono dalla borsa, escono dal debito delle imprese e quindi diciamo i tassi scendono perché c'è un'enorme domanda di liquidità. Quindi il punto fondamentale è, a un certo punto avverrà ovviamente che la domanda ritornerà, la domanda, diciamo, portafogli degli agenti ritorneranno verso attività più rischiose, azioni e debito delle imprese. In quel momento quello sarà il momento cruciale per vedere come agisce la Fed. Quello è il momento in cui la Fed deve riprendersi i titoli del tesoro e permettere quindi gli investimenti in attività più produttive. Questa è una delle ragioni per cui, diciamo, lo stimolo fiscale di Obama fa un po' paura, perché se il denaro che la Fed, che il governo riceve in questi momenti, in questi giorni a tassi estremamente bassi viene investito male, con ritorni particolarmente bassi, sarà poi difficile uscire dalla situazione di liquidità e si finirà inflazionare. Ecco, quello che rispondo ad alcuni ascoltatori sul fronte male regole, nuove autorità, ricordo quanto appena detto Alberto Bisin nella prima parte, è probabilmente troppo d'emergenza la situazione per ragionare con calma su come riformare le autorità. Appena, questo ce lo auguriamo, la situazione si sarà calmata, si spera che arrivino anche nomi, cognomi, licenziamenti non solo dei dipendenti ma anche di chi doveva vigilare. Penso dove, così mi sono sempre chiesto, dove fosse la SEC, la Consob americana, dove fosse la Federal Reserve, dove fossero tutti, probabilmente da un'altra parte. Ultima domanda, professor Bisin, c'è chi teme, visto che lei questa cosa la vede dall'America, ma qui in Europa c'è più di un timore che in generale, complice la crisi, lo stato di emergenza, la calamità finanziaria, tornino in auge vecchie politiche protezionistiche. Io ricordo che nel 29, dopo quella crisi lì, la botta più grossa arrivò anche da un'America che alzò le barriere e contribuì a affossare ulteriormente l'economia. Timore dovuto anche ad alcuni provvedimenti, su cui è tornato oggi il sottosegretario con delega al commercio estero, Adolfo Urso. Purtroppo i segnali che ci sono giunti poche ore fa, in nottata, dal Congresso americano sono estremamente negativi. Come temevamo, siamo stati prima ad allarmare la Commissione europea domenica scorsa e anche la stampa italiana sul pericolo che i piani anticrisi si trasformino in piani protezionistici. Il Congresso americano stanotte ha approvato il piano anticrisi e, approvando alcuni emendamenti protezionistici estremamente gravi e pericolosi che potrebbero scatenare una guerra commerciale tra gli Stati Uniti e l'Unione Europea, perché hanno approvato tra l'altro un emendamento che prevede che nel piano anticrisi americano si possa utilizzare soltanto acciaio made in United States, e altri emendamenti al Senato intendono estendere questo a tutti i prodotti utilizzati dalle amministrazioni americane o con risorse pubbliche americane. Allora, professor Bisin, dazi aumentati del 100-200% sull'acciaio, sulle acque minerali, sui formaggi, aiuti al settore auto. Quanto pericoloso, quanto grave è il rischio che o la tentazione che i governi, diciamo, tornino a politiche protezionistiche, con la conseguenza che invece che difendere delle volte l'economia la si vada a affossare? Sì, purtroppo credo che questa sia un gravissimo rischio, come anche ricordava lei. Questo è stato, diciamo, le politiche protezioniste sono stati una, o forse la più grossa ragione per cui, diciamo, le politiche del New Deal hanno avuto anche effetti negativi, nel senso che hanno fatto durare la crisi molto più di quanto probabilmente sarebbe durata. Questo è gravissimo, purtroppo ce lo si può aspettare, nel senso che il Congresso americano, i democratici soprattutto, ma in realtà su queste cose anche i repubblicani, tendono a essere abbastanza populisti, e quindi, poiché si trovano davanti piani di spesa immensi contro i quali che in realtà è molto difficile vendere ai cittadini, lo fanno, diciamo, aiutano questa vendita ai cittadini dei piani di spesa argomentando Buy American, insomma, questa ovviamente è una cosa gravissima, secondo me. Ultima domanda, grande richiesta degli ascoltatori: la bad bank. Che cos'è la bad bank? È l'ipotesi circolata in America, il primo è stato Gordon Brown in Gran Bretagna, se non ricordo male, ma insomma, l'ha suggerita anche il ministro Tremonti, il commissario europeo Almunia ha detto: beh, non siamo contrari, ci si può ragionare, di creare una banca in cui buttare tutta la robaccia che hanno comprato le banche d'affari a livello mondiale, prodotti tossici, carta straccia, prodotti fasulli, nel senso che poi adesso non hanno più prezzo, non valgono più niente, con un danno in conto patrimoniale anche per le banche, che a questo punto li hanno messi a bilancio, e vedremo cosa succederà fra un po' di anni di quei prodotti, però insomma eliminando la tossicità sul mercato, e a quel punto facendo confluire tutto in questa banca cattiva, i governi sarebbero più liberi di aiutare l'economia cosiddetta reale. Che ne pensa? Dunque, sì, ci sono due elementi, credo. Il primo elemento è la trasparenza. È importante sapere dove stanno queste attività tossiche, chiamiamole così. È importante sapere chi le ha, quante ne ha, dove stanno. Quindi, se la banca, se la bad bank ha questa funzione, ben venga, è assolutamente fondamentale. Anzi, la Fed è stata estremamente lenta a rivelare le informazioni su dove stavano queste attività, e questo secondo me è stato un enorme danno, ha portato un enorme danno al sistema finanziario. Quindi dal punto di vista della trasparenza, splendido. Il resto, dal punto di vista della banca in sé, beh, il fatto che ci sia una banca che detiene tutte queste attività è irrilevante, la questione è a quale prezzo sono acquistate. Certo. E quindi quanto essenzialmente la Fed finirà per sussidiare le banche che hanno investito in queste attività. Io spero molto poco, quindi spero che la Fed compri queste attività al prezzo di mercato oggi, che è molto basso. Che è quasi zero. E che poi invece decida di ricapitalizzare le banche in modo responsabile, quindi partecipando al capitale di rischio delle banche. Grazie ad Alberto Bisin, in collegamento con noi dalla New York University, dove insegna economia. Come sentite, non è facilissimo neanche per Obama, ma è meglio parlare di queste cose prima che non trovarsi sempre a commentarle dopo. Vedo che l'ultimo commento di Alberto Bisin ha suscitato molto interesse, ossia dicessero anche le banche americane, banche mondiali, quanta roba hanno ancora in pancia. Domani ne riparleremo, perché tratteremo, appunto, come vi ho anticipato, sia dello scandalo dei bonus dati ai manager di queste banche che poi sono tecnicamente fallite, ma anche del perché si avverta questa lentezza enorme, non solo in America, anche in Germania, anche in Gran Bretagna e anche da altre parti, lentezza nel dire cosa e quanti prodotti tossici hanno in pancia ancora le banche. Questo crea ancora più insicurezza e incertezza sul mercato. A proposito di banche, poco fa da Davos, in cui torneremo a collegarci, il numero uno di Unicredito, Alessandro Profumo, ha dichiarato che potrebbe ricorrere per alcune controllate del gruppo, ha fatto riferimento al caso specifico austriaco, potrebbe ricorrere agli aiuti di Stato, agli aiuti che i vari Stati hanno messo in piedi per il sistema creditizio. Il titolo, la dichiarazione è arrivata poco prima della chiusura di borsa, il titolo non ne ha molto risentito, mi sembra meno 2,7 perdeva, meno 2,7 ha perso. Comunque, la Nora Michele, Radio Corri sulle 24 ore, buonasera. Buonasera a tutti. Allora, Bulgari meno 6,5, Telecom meno 5,6, Fondiaria meno 4,7, Fiat meno 4 come Pirelli. Allora, Fiat oggi, insomma, nemmeno l'ipotesi che tra una decina di giorni si possa arrivare a un piano auto ha risollevato il titolo? No, infatti i titoli oggi sono andati male, va detto che ieri le azioni avevano guadagnato più del 6% proprio sull'attesa che uscissero indicazioni esatte sul piano di sostegno al comparto auto. Di fatto non sono uscite indicazioni dettagliate, non è stata detta la cifra, e quindi questo ha provocato un po' di sconforto tra gli investitori che hanno deciso di vendere le azioni. In una giornata peraltro che è stata abbastanza difficile per tutto il settore europeo, il sottoindice del comparto auto europeo è stato uno dei peggiori, ha lasciato sul parterre il 4,56%. Ancora sui titoli, poi rispondiamo anche a qualche sms. Benital Cementi più 2,9%, mentre, e questa non la capisco proprio, Buzzi Unicem, che opera nello stesso settore, ha perso il 2,3%. Sì, oggi infatti c'è stato questo andamento, si parla anche di switch, ovvero di passaggi da Buzzi a Italcementi, e quindi questo ha provocato lo scivolone delle Buzzi, mentre il rialzo delle Italcementi, anche se in verità notizie particolari o rumor sulle due aziende non è che ci siano state. Ancora sui titoli, oggi i bancari, come era immaginabile, hanno conosciuto i realizzi, ossia le vendite dopo i rialzi di ieri. Citavamo Fondiaria, Generali e aggiungiamo anche, oltre a Unicredito, Monte dei Paschi meno 1,8%, tra i non, e Intesa meno 1,4%. Tra i non bancari, oltre a Fondiaria e a Pirelli, male di nuovo ST Microelectronics dopo i dati diffusi ieri, meno 3,6, Luxottica meno 3,4, Lottomatica meno 3, Autogrill meno 2,80%, Impregilo meno 2,5%. Telecom Italia, che succede? Meno 5,6%. Sì, meno 5,6%. E oggi nella giornata del Consiglio di Amministrazione della Telco, per cui... Sì. Infatti durante della seduta i titoli sono arrivati a perdere ben oltre il 7%, oggi ricordiamo che i titoli hanno violato al ribasso la soglia di 1 euro ed era più o meno dal 21 di novembre che ciò non accadeva, è una giornata quindi nera. In particolare si è riunito il consiglio di amministrazione di Telco e solo adesso a borsa chiusa abbiamo saputo che è stato deciso che è stata rivista, rettificato il valore delle Telecom che detiene Telco, ricordiamo che Telco è la scatola che controlla il 24,5%, il valore è stato portato da una media di 2,6 euro a 2,2 euro, comunque livello ben superiore agli attuali 0,98 centesimi per azione. Il mercato comunque teme ovviamente le prospettive dell'azienda e soprattutto il fatto che la società ha problemi sia in Argentina che in Brasile, dove detiene delle partecipazioni. Ieri Franco Bernabè, numero uno di Telecom Italia, era in visita ufficiale appunto in Argentina presso la presidente dell'Argentina per discutere sulla situazione. Ecco, ricordiamo anche gli azionariato di Telecom, perché è arrivata l'agenzia, come tu stavi anticipando, Telecom ha svalutato la quota. Cosa vuol dire? Quando tu hai un'azione, come per un privato cittadino, la metti in bilancio in un'azienda al livello di prezzo più o meno di solito a cui l'hai comprata. Loro ce l'avevano in bilancio a una certa cifra, hanno svalutato nel bilancio quanto vale l'azione Telecom. Hanno detto che a bilancio vale 2,2 euro. Siccome, come tu ricordavi Leonora, in realtà in borsa Telecom vale molto molto meno, vale 1 euro, la metà, meno della metà, è possibile che questo che questa non sia l'unica svalutazione della partecipazione in Telecom Italia. Telecom è formata da Telefonica, quindi gli spagnoli 42%, Generali hanno il 28%, Intesa San Paolo al 10%, Mediobanca un altro 10%, e i Benetton di Edizione Holding hanno un altro 8,4%. Se vuoi concludere su Telecom, ma anche Bulgari, che è il peggior titolo, meno 6,4%. Sì, su Telecom appunto si attendono novità anche soprattutto sull'Argentina e sul Brasile, dove ricordiamo che le autorità brasiliane hanno imposto un'OPA su TIM Participación, che è la quotata in Brasile. D'altra parte la società ha deciso proprio oggi nel corso del consiglio di amministrazione Telco di far ricorso contro questa decisione. Per quanto riguarda Bulgari invece i titoli sono andati male, molto nervosismo, perché adesso a borsa chiusa saranno forniti i dati sulle vendite preliminari del 2008, e peraltro la società aveva già fatto comprendere nei mesi scorsi che le prospettive erano poco rosee. Lo stesso amministratore delegato Trapani ha più volte detto che anche il Natale 2008 si prospettava come un Natale nero. Ancora sui titoli, chiedo scusa per la voce in questo momento, oltre a Fiat, Steel Microelectronics e Telecom Italia e Bulgari di bancari, abbiamo detto tre migliori, peggiori, troviamo peggiore Cell Therapeutics meno 18,5, migliori Credem sugli ordinari più 5%, Eurofly più 4,56%. Su Parmalat c'è stato molto movimento oggi, Leonora. Esatto, i titoli Parmalat infatti sono stati un po' al centro dell'attenzione e hanno chiuso il rialzo più 1,8%, e nel durante della seduta sono quelli che hanno vantato diciamo una delle migliori performance, almeno tra le società a maggiore capitalizzazione. Oggi un giornale ha scritto che ci potrebbe essere un rimpasto ai vertici, e in particolare che si parla già, è già stato fatto un nome, Manca, che potrebbe sostituire Enrico Bondi. D'altra parte la società ha assolutamente smentito, ma evidentemente c'è chi continua a credere che ci possa essere qualche novità sull'azienda, magari sul pressing dei fondi che sono molto presenti nell'azionariato di Parmalat. Grazie, grazie Leonora Micheli, Radio Cori, Sole 24 Ore, quasi tutti i titoli ve li abbiamo dati. Adesso parliamo una volta tanto, nonostante la crisi, anche di opportunità di investimento. Di Romania si parla purtroppo molto, di rumeni più che di Romania, ci mancherebbe, in questi giorni per la cronaca nera, ma oggi ce ne occupiamo, cerchiamo di capire anche quanto restino le opportunità, perché la Romania resta una delle principali mete per il nostro export e anche per la internazionalizzazione delle nostre imprese. Non che non abbia difficoltà la Romania come economia, tra l'altro la stima quest'anno è di un PIL che crescerà solo del 2%, avercelo noi, l'anno scorso è cresciuto dell'8%, comunque la Romania è messa meglio rispetto alla Polonia, dove che ha visto un calo più significativo della propria crescita economica, e sicuramente dell'Ungheria, che è il paese dell'est che andrà più in maniera più forte in recessione, meno 2,5% previsto oggi. L'Italia è il quinto investitore diretto in Romania, nel paese sono presenti 27.000 aziende italiane e la Romania assorbe 1,5% di tutto il nostro export. Oggi vi è stato un incontro, una bilaterale organizzata da Confindustria e da un'impresa in Romania proprio sull'opportunità di investimento in Romania. Allora ascoltiamo il vicepresidente di Confindustria con la delega alle infrastrutture, Cesare Trevisani, al microfono della nostra Chiara Di Michele. Ovviamente la Romania, come tutti i paesi, soffre di questa crisi globale che c'è in questo momento in Europa e in tutto il mondo, però è uno dei pochi paesi dell'Unione Europea allargata a 27 che ha comunque un tasso potenziale di crescita in positivo attorno all'1,9-2% per il 2009, quindi con numeri estremamente interessanti. L'altro aspetto estremamente interessante è l'organizzazione dello Stato, quindi la trasparenza delle normative, e il terzo punto molto interessante è il tema delle infrastrutture, cioè un programma di infrastrutture legato ai fondi strutturali europei molto molto importante. Questo può essere fonte di attività interessanti per le imprese italiane, di partecipazione insieme alle imprese rumene, può essere fonte interessante per le imprese italiane la fornitura di know-how e di tecnologie di cui la Romania ha ammesso chiaramente di essere carente, per cui le opportunità sono tante. I fondi europei stanziati per la Romania nel periodo 2007-2013 ammontano a circa 19 miliardi di euro, più 8 miliardi per il settore agricolo e più 5 miliardi di cofinanziamento rumeno. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per parlare di Davos, delle dichiarazioni che sono state fatte oggi anche dal nostro Ministro dell'Economia. L'aggiornamento che si fosse appena messo in collegamento, borse negative oggi, anche se non in maniera drammatica, -1% Milano, -2% Parigi, Francoforte e Londra. Euribor basso ai minimo dal giugno del 2004, questa è una buona notizia. L'OPEC da Davos, quindi i paesi produttori di petrolio, dicono che il petrolio a $50 non va bene, adesso viaggia a 40, ma loro non va bene neanche a 50, e preannunciano tagli alla produzione. Vedo che alcuni di voi hanno riso di gusto sul club delle mogli fidanzate disperate degli ex ricchi banchieri, perché sono sempre in giro a bere disperati dal crollo di Lehman Brothers e da alcuni licenziamenti. Per quello che riguarda la polemica con Madoff, è vero, come oggi riportava Claudio Gatti su Sole 24 Ore, c'è una grossa tensione dentro JP Morgan. Che cosa è successo? Che JP Morgan Chase si è scoperto che era uscita da ogni investimento con il furbone, per essere buoni, Madoff, che ha con un sistema classico dell'aeroplanino della catena di Sant'Antonio creato un buco da $50 miliardi, ma era uscita JP Morgan Chase, non aveva avvisato i suoi clienti che erano rimasti investiti nei fondi di Madoff, ed ecco perché sembra che alcuni stiano praticamente pensando a un'azione risarcitoria. Era uscita la banca, ma non aveva avvisato i clienti a cui aveva venduto questi prodotti. Complimenti anche a JP Morgan, che aveva investito $250 milioni. La crisi, la Ford oggi annuncia la perdita peggiore della sua storia, la Germania vede la disoccupazione salire al 7,8%, vanno molto bene i gruppi legati ai consumi di fascia bassa. Oltre a McDonald's, come ricordavamo, che ha annunciato 12.000 nuove assunzioni nel 2009, oggi anche H&M, la catena svedese della moda a basso costo, ha annunciato tra le 6.000 e le 7.000 nuove assunzioni, perché le vendite di moda a basso costo e di prodotti di H&M vanno molto bene. Le ricette che stanno uscendo da Davos, ricette no, forse qualche analisi. Parliamo allora della seconda giornata del World Economic Forum. Dicevamo 2.500 rappresentanti tra politici, economisti e anche cosiddetti intellettuali, tra la cui si citano e si annoverano 41 capi di governo, 150 ministri e 1.600 rappresentanti del mondo finanziario. La prima dichiarazione che riascoltiamo, per chi se la fosse persa, Jean-Claude Trichet, presidente della Banca Centrale Europea, che dice oggi alla CNN: non mi piacciono i tassi bassi, ma non escludo che possano andare anche sotto il 2%. È vero che il Consiglio della Banca Centrale Europea considera, per molte ragioni, che tassi di interesse molto, molto bassi non siano appropriati. That being said, I also said that Detto questo, però, posso anche affermare che i tassi attualmente sono al 2% e non escludo che potrebbero scendere al di sotto di questa soglia. In marzo avremo il prossimo importante appuntamento e non escludiamo nulla. Non escludiamo azioni straordinarie, ma già quello che facciamo oggi è fuori dagli standard. Già oggi forniamo liquidità senza alcun limite. Nessuno avrebbe immaginato che avremmo fatto quello che stiamo facendo prima dell'intensificarsi della crisi a fine settembre 2008. Stiamo prendendo dei rischi mai presi prima, proprio perché stiamo vivendo una situazione economica molto particolare. Quindi abbiamo adottato misure non convenzionali. Potremmo prenderne delle altre, vedremo. Non voglio anticipare nulla e non voglio escludere nulla. I don't pre-announce anything, I don't exclude anything. Così il numero uno della Banca Centrale Europea. Lino Terlizzi in collegamento con noi da Davos, buonasera. Buonasera a tutti. Qualche autocritica oggi? No, ne abbiamo viste poche. Ma, diciamo, sai che è un mio pallino, sapere se un po'. Lo so, hai ragione, ma qui e là, però sono tante critiche, poche autocritiche. Ci sono messi anche due ex leader politici oggi come Bill Clinton e Tony Blair, e tutte e due hanno parlato di cose che hanno a che vedere anche con i valori, con l'etica. Bill Clinton ha detto: attenzione, siamo noi negli Stati Uniti, ecco qui forse c'è un accenno parziale di autocritica, ad aver provocato questa crisi finanziaria, dobbiamo essere noi ad essere molto attivi per uscirne, ho fiducia in Obama, ci vorranno un anno, 15 mesi, ma ce la faremo. Tony Blair ha parlato di interessi globali, di etica, non solo profitto, ha detto. Certo, una critica che sarebbe stata forse più convincente se fatta qualche anno fa e non adesso che la crisi è scoppiata, ma tant'è, hanno parlato di questo. E poi abbiamo l'intervento del ministro italiano Giulio Tremonti, che ha parlato di union bond, che sono un po' il proseguimento, se vogliamo, del discorso degli euro bond per finanziare il rilancio delle economie in questa fase di crisi, di detax o a tax, cioè la destinazione di una parte dell'IVA ai paesi poveri. Poi ha parlato anche di banche, ha detto le banche italiane non parlano inglese, suscitando qualche interrogativo perché la critica era esplicita, cioè la derivazione anglosassone di questa crisi finanziaria, ma però naturalmente la lingua ufficiale qui a Davos nei dibattiti è l'inglese, quindi diciamo che ha suscitato interesse come minimo dichiarazione. Adesso ascolteremo la dichiarazione di Tremonti, perché la frase, per come l'ho capita io, è: noi abbiamo meno problemi come sistema bancario di altri paesi, perché a parte qualche notevole eccezione nelle nostre banche non si parla inglese. Era chiaramente ironica, come dire, il fatto che molti non siano stati così irretiti o contagiati dalla finanza anglosassone ha di fatto, se vogliamo, delle volte anche involontariamente salvato molte banche italiane dai disastri in cui sono invece le banche inglesi, tedesche, svizzere e in particolar modo americane. Allora, partiamo subito con il ministro Tremonti, visto che ci facevi riferimento anche tu, Lino. Lo ascoltiamo in inglese, cercherò io di fare una traduzione, spero non troppo approssimativa, mentre parla Tremonti. First lesson coming from the crisis is it's important the public debt, but it's also important the private debt. E questo è il passaggio in cui Tremonti dice: beh, la prima lezione che si può trarre da questa crisi in atto è che è importante il debito pubblico, ma anche il debito privato, e il debito privato è più importante di quello pubblico. Il riferimento è a tutto l'indebitamento delle famiglie americane, ma non solo. E Tremonti dice: beh, dal 2001 a livello europeo tutta l'attenzione si è sempre concentrata solo sul debito pubblico, e io soffrivo molto nell'essere italiano perché noi abbiamo il debito pubblico più grande d'Europa e il terzo al mondo. Adesso abbiamo scoperto che anche il debito privato è importante, questa è la prima lezione, e qui su questo fronte soffro un po' di meno, perché noi abbiamo una situazione messa meglio sul debito privato. Gli italiani naturalmente risparmiano, questo lo aggiungo io. L'Italia, ha aggiunto Tremonti, ha 4 milioni di piccole imprese, il nostro sistema bancario sembra essere abbastanza solido e conosco la ragione: a parte qualche notevole eccezione, nelle nostre banche non si parla inglese. With some exceptions, remarkable, they don't speak English. E questo il ministro Tremonti. Tra l'altro sul tema della bad bank, Lino Terlizzi è tornato il ministro, oppure diciamo, la dichiarazione di una settimana fa è quella che fa fede? Tremonti è a favore di una banca europea in cui confluiscano tutti i prodotti tossici delle varie banche private? Mi sembra sia tornato, penso che la posizione sia sempre quella. Volendo concludere su Tremonti, volevo solo confermare che l'ironia naturalmente è stata accolta dalla platea riguardo all'inglese, e però c'è stato interesse, insomma, ecco, su questa battuta. Ancora su Tremonti, ha spezzato una lancia a favore del G20, quindi non solo G8, ormai la questione più ampia, e quindi lì bisognerà discutere più regole, non più capitali necessariamente, ha detto anche Tremonti. Un accenno vorrei fare, se mi permetti, anche alla mattinata, dove c'è stato un intervento del ministro dell'industria e del commercio indiano, Kamal Nath, che è un protagonista sulla scena del commercio mondiale, che ha dato un tocco insolito in questa platea di ottimismo, perché ieri c'erano state Russia e Cina, che in un certo senso erano state più ottimiste dei paesi sviluppati, però non avevano certo negato Putin e Zhao Bao la gravità della situazione. E sull'India invece Kamal Nath ha detto: guardate che sì, abbiamo un rallentamento, ma stiamo andando tutto sommato abbastanza bene ed abbiamo fiducia. Il terzo grande paese emergente oggi ha parlato così. E lo dicevamo anche ieri, ma insomma fa impressione vedere che tutti questi grandi finanzieri, uomini potenti del mondo, sono appesi alla Cina e soprattutto all'India per avere un po' di fiducia. Restiamo sull'ipotesi della banca cattiva, della banca dove mettere tutta questa robaccia, perché piace l'ipotesi anche a qualcuno che di finanza, di investimenti se ne intende. Mi riferisco a George Soros, il quale ha detto: però attenzione, se facciamo la bad bank facciamo anche la good bank. If when the original $700 billion program it had been used, se il piano originale da 700 miliardi di dollari fosse stato usato con metodo per ripianificare il sistema bancario, allora avrebbe funzionato e magari non ci sarebbe neanche stato bisogno di stanziare 700 miliardi. Ma i fondi non sono stati usati in modo saggio. La metà è stata sprecata. L'altra metà sarà necessaria per tappare i buchi che sono già emersi. E nel frattempo, le perdite del sistema bancario sono ora nell'ordine di 1.500 miliardi di dollari. È la cifra che sarebbe necessaria e anche quanto dovrebbe essere stanziato per ricapitalizzare le banche. Tuttavia, penso che il pozzo sia stato avvelenato dal modo in cui Paulson ha usato i soldi nel piano TARP. Il piano darà certamente un certo sollievo, ma non basterà a rovesciare la situazione. Per far fronte alla crisi finanziaria, vedo una doppia soluzione che preveda la creazione di una bad bank, ma anche di una good bank. Rovescerei però il concetto rispetto a quello che viene proposto in questo momento. Io propongo di far concentrare nella bad bank i titoli tossici e il capitale residuo e creare la good bank con la parte buona dell'attivo e poi ricapitalizzare quest'ultima. Con questa soluzione credo che sarà possibile trovare investitori pronti a investire in una good bank che non ha dentro di sé nessun titolo tossico. Sì, mi sembra che anche Soros ragioni molto da accademia, Lino Terlizzi, ma si naviga abbastanza a vista anche a Davos. Sentiamo sempre colui il quale è stato considerato uno dei più grandi finanziari, anche speculatori, quello che cacciò la lira e poi la sterlina dallo SME con operazioni assolutamente rischiose, speculative. Che ne pensa della situazione attuale? This is a crisis that originated in the financial system. Questa crisi ha avuto origine nel sistema finanziario. Non è stata creata da qualche shock esterno come quello legato per esempio al petrolio. È stata invece creata dal sistema finanziario stesso. Quando il sistema finanziario è crollato dopo il fallimento di Lehman Brothers, si è avuto un impatto negativo sui mercati emergenti, perché prima l'Europa e poi gli Stati Uniti hanno dovuto garantire il loro sistema bancario e hanno rassicurato che nessuna altra istituzione sarebbe fallita. Ma i governi nei paesi emergenti non possono fare promesse credibili in questo senso, perché non hanno né le risorse né la forza, per esempio, degli Stati Uniti. per arrivare a vedere la fine di questa crisi. Molto dipende da come reagiscono le autorità, ma certamente non si vedrà un miglioramento prima della fine dell'anno, per essere ottimisti. Ciò che non avevo previsto è stato il crollo del sistema finanziario, ed è quello che è successo quando Lehman Brothers è fallita. È stato un momento di svolta con ripercussioni significative sull'economia reale. Ciò che aveva avuto inizio nel sistema finanziario si è poi propagato all'economia reale. Se le misure aggiuntive non verranno prese, quanto è stato fatto finora servirà solo a rallentare il ritmo del declino, ma non a far svoltare l'economia. A meno che non si compiano altri passi come ricapitalizzare il sistema bancario, riorganizzare il sistema dei mutui e considerare attentamente le ripercussioni a livello internazionale. Un aspetto, questo, che è stato poco considerato, ma che ha avuto effetti assolutamente negativi sulle economie emergenti. But it has had a tremendously negative effect on the emerging economies. Così George Soros. Tra l'altro questa sera vi sarà anche, tra poco, se non ho capito male, l'intervento della Presidente Confindustria Emma Marcegaglia. Lino Terlizzi, che cosa ci aspettiamo tra stasera e domani? C'è questo intervento appunto in una riunione della Presidente di Confindustria Marcegaglia, e poi naturalmente si infittiscono gli interventi da parte un po' di tutte le maggiori aree economiche. Il programma è abbastanza ampio tra oggi e domani. Ecco, sabato ci sarà, bisogna ricordarlo forse questo, un vertice di una ventina di ministri economici di 20 paesi importanti, cioè la regia un po' della Svizzera e dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, perché lì il tentativo che si è fatto anche in passato, senza successo peraltro sinora, è quello di sbloccare qui a Davos il Doha Round e quindi di dare un segnale contro il protezionismo. La Svizzera sta proponendo in particolare una dichiarazione ufficiale di sia di stati, di governi che di imprese, di privati, contro il protezionismo. Vorrebbe che uscisse qui da Davos una dichiarazione scritta e nelle loro intenzioni da molti firmata, in vista della riunione di sabato, di questo vertice di sabato, ma anche in vista di una battaglia, diciamo, culturale contro il protezionismo più ampia. Per inciso, ma in una battuta, qualche riflessione autocritica dei top manager di UBS, principale banca europea, Unione delle Banche Svizzere, 20 miliardi di svalutazioni per la robaccia che si è comprata? No. Guarda, sinora qui a Davos no, loro formalmente l'avevano fatta, in particolare il presidente Kurer, che è presente a Davos ma non mi sembra intervenga per ora, l'avevano fatta in sede di assemblea degli azionisti più di una volta, questa parziale autocritica. Vorrei anche però, vedere, insomma, che di fronte agli azionisti non gli spieghi com'è che fatto perdere 20 miliardi in prodotti di cui non si capiva il funzionamento. Grazie. L'hanno messo un po', perché il manager precedente non aveva fatto. Però per ora non sono alle viste interventi qui. Grazie a Lino Terlizzi, che anche domani ci racconterà quello che emerge dal forum di Davos. Non perdetevi, come si dice in questi casi, la puntata di domani, perché andremo con l'aiuto dei colleghi di Sole 24 Ore a vedere stipendi dei manager bancari americani e cercare di capire quanta roba tossica abbiano ancora in pancia. Alcuni di voi dicono sì, mi sembra che si discuta molto di come scaricare le perdite e non di assumersi responsabilità. Avete ragione, ma tant'è. Buona serata a tutti da Sebastiano Berisoni, ci risentiamo domani dalle 17 in poi.